Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale per questo programma che è Zardins Magnetics e anche oggi in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane andremo avanti fino alle ore 21:30 e per questo 27 novembre 2025. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. Bene, ora andiamo all'ascolto, così alla presentazione anche direi, perché è di un'ennesima uscita nell'area della bassa goriziana, e terzo album per questa band che ha, insomma, dall'acronimo NSF, prima stava per No So Far, adesso c'è stato così il cambiamento del cantante e sono diventati Nessuno Schema Fottuto. Questo è proprio album uscito da pochissimi giorni e si chiama Il Futuro È Già Qui. NSF. L'ombra dell'apocalisse capitalista parte dai naufragi nel Mediterraneo e arriva fino alla striscia di Gaza, passando per le nostre vite, straziate da un potere, privilegio di pochi, ma spacciato al diritto di tutti. A tutti voi, sinceri democratici, nostalgici razzisti, elettori un po' tonti, poco importa. Ho solo una cosa da dirvi. Maledetti. Maledetti. Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti voi che siete in ascolto di Zardins Magnetics di oggi, che è giovedì sera 27 novembre. Vado solo velocemente a presentarvi un po' gli argomenti di stasera. Come abbiamo preannunciato, mais miracoloso e terra di rapina. Il progetto Manhattan sui contadini italiani, chi si arrese e chi cercò di resistere in tutti i modi. Lottiamo perché lo stato di guerra non chiude i conti con le rivolte, dalla Palestina a noi, quindi questi qua sono i due blocchi. Semplicemente li ho enunciati e fra poco insomma andremo a partire con le letture, con i ragionamenti. Eccoci qua, come detto, allora andiamo a aprire il primo, così, primo pacco che contiene le, appunto, questo percorso che vogliamo fare stasera, che prosegue, perché Progetto Manhattan era quel tema che veniva trattato da che è stato trattato in un intervento, una puntata precedente. Precisamente era il libro del Jean-Marc Royer, Il mondo come progetto Manhattan, quindi dai laboratori nucleari alla guerra generalizzata alla vita. Ecco, avevamo visto, insomma, anche se con dovuti limiti, cioè chiaramente con i limiti del mezzo, avevamo provato a vedere un po' i contenuti di quel saggio, che erano riassumibili in questo. Il progetto Manhattan è imporre attraverso il terrore, il tentativo di imporre attraverso il terrore la sottomissione al binomio scienza capitale, quindi quello che è stato fatto dalla superpotenza, insomma, vincitrice della guerra fredda, è appunto una dimostrazione di forza addirittura superiore alla natura, per bloccare ogni tipo di movimento di liberazione, ma anche di riconquista dell'autenticità della vita, insomma, umana, e imponendo appunto questa idea guida della produttività, del produttivismo, no? Attraverso la scienza e la tecnica, soprattutto il progresso tecnoscientifico, e corollario di tutto questo il modello dell'uso duale civile e militare di ogni innovazione, che chiaramente del campo tecnologico, quindi in tutti i campi, tutti i settori, ogni tipo di approccio era teso a spingere sull'innovazione, no, tecnologica, in questa prospettiva che comunque anche in quei settori dove è difficile magari immaginare un impiego diretto nel campo bellico, ad esempio di quello di cui cercheremo di parlare stasera, cioè il campo dell'agricoltura, in ogni modo con i piani Marshall, con i vari, insomma, con le varie misure che sono state messe in piedi nell'immediato dopoguerra, erano anche tese nell'ottica di, ad esempio, immagazzinare le risorse, ad esempio di aumentare mettere in atto delle misure per ammassare delle anche questo tipo di risorse, che sono appunto quelle cerealicole o eccetera, insomma, pensate in un quadro di difesa, ecco, in un quadro di invasione, ad esempio, del nemico, avere delle risorse in più, ok? Ecco, le resistenze a questo tipo di manovra che vedremo stasera, ovviamente hanno una doppia faccia, ecco, della stessa vicenda, perlomeno restringendo la questione allo stivale, no? Nel senso che da un lato appunto si andò ad imporre, quindi nelle aree più già diciamo in corsa, insomma, per lo sviluppo, per questo tipo di sviluppo, no, produttivistico, quindi nel nord-ovest, ecco, per farla breve, in certe regioni appunto si andò immediatamente a recepire questo genere di spinte che venivano dal Nord America. Nelle aree cosiddette arretrate del sud, specialmente del sud, insomma, ma non solo, si svilupparono, insieme appunto a quelle lotte a cui abbiamo accennato per la riforma dei patti, quindi dei contratti agrari, anche un altro genere di resistenze sia radicali, insomma di attacco, sia anche comunque di proprio tecnico, ecco, nel senso che non furono recepite, ad esempio, questo genere di sì, ci fu una refrattarietà che andremo a vedere, insomma, fra breve. Quindi, per cominciare, vi voglio parlare di questa opera che si chiama Terra di Rapina, appunto, che c'è proprio un'opera, un saggio, un breve saggio di una giornalista che si chiamava Giuliana Saladino. Questo saggio uscì nel 1977. L'occasione fu dovuta al fatto che un fatto di cronaca a Carmagnola in Piemonte nel 1972, 50 anni fa, durante una rapina praticamente in una banca, piccola banca di paese, e praticamente quelle cose che succedono, che si vedono anche nei film, la rapina andò male per una, diciamo, specie di sottovalutazione delle cose che succedono, e praticamente uno dei rapinatori, che si chiamava Giuseppe Di Maria, rischiò di essere linciato dalla folla. Non era il rapinatore che aveva sbagliato, che aveva reagito malamente, che aveva perso, diciamo, sangue freddo. Non era lui, lui era in squadra con altri due, ma finì per essere quasi linciato. I carabinieri lo hanno, diciamo, tratto fra virgolette in salvo. E questa, da questo fatto di cronaca, nel senso che appunto uno dei rapinatori è partito un colpo, è rimasto ucciso un cliente, insomma, della banca, alla Giuliana Saladino è venuto in mente che tra l'altro era anche lei siciliana, è venuto in mente di andare a vedere non solo che tipo di vita aveva portato questo Giuseppe Di Maria a compiere questo tipo di scelta di vita, ma anche il contesto, ecco, il milieu, il contesto di vita da cui veniva, per cui tutto quello che è successo esattamente in 10 anni, nei 10 anni in cui, negli ultimi 10 anni in cui questa persona ha vissuto in Sicilia, poi appunto ha dovuto emigrare, ha avuto un periodo di carcerazione, ma comunque, e c'è una ricostruzione, praticamente un dossier questo libro. E dopo il brano musicale che tra poco partirà, andremo a leggere appunto alcune testimonianze. Eccoci qua. A Petralia Sottana decidemmo l'occupazione simbolica del feudo Cozzo Cofino. una vera pietraia, ma occuparlo era un problema politico, perché il barone proprietario era assenteista e sfruttatore. Abbiamo stabilito in assemblea la data e l'ora. All'alba, alla punta del paese, in località Piriddi. Il giorno fissato, contadini e braccianti vanno sbucando uno a uno lentamente. Si leva il sole e verso le 7 capiamo che a questo punto non sarebbe venuto più nessuno. Ci siamo contati, eravamo in tutto 36. Alcuni a cavallo, altri a piedi. Che fare? Diventava una cosa pericolosa. Ci mettiamo a discutere se non è il caso di rimandare tutto. E a questo punto un contadino grida: il pesce fete dalla testa, alludendo a noi dirigenti, cioè la testa, accusandoci di puzzare di tradimento e di vigliaccheria. Andare avanti diventò un punto d'onore. Mi danno un cavallo, ci mettiamo in fila con una sola bandiera rossa in testa. Facevamo pena. Eravamo una pattuglia di disperati, isolati. Avevo paura perché sapevo che in questi casi può accadere di tutto. Da ogni muro potevano spuntare le canne di un fucile. Potevano spararci, massacrarci o anche solo intimidirci. Si marciava in silenzio, abbattuti e senza canti. Scendiamo a valle, risaliamo il pendio verso il feudo, arriviamo a Cozzo Cofino e piantiamo la bandiera rossa. Il feudo è su una collina scoscesa, proprio di fronte al paese, e lo spettacolo che ci si presentò fu emozionante. Tutto il piazzale della chiesa madre, il belvedere di Petralia, aperto sulla vallata, gremito fitto di gente che salutava, chiamava, cantava, sventolava bandiere. Erano tutti quei vigliacchi che non avevano avuto il coraggio di venire con noi, ma fu un'esplosione di gioia. Non eravamo soli e i tanti rimasti vennero ad attenderci e accoglierci alla punta del paese. Si tenne allora una affollatissima assemblea di contadini e tutta la lotta delle petralie cominciò di lì. Il barone fece chiamare alcuni di noi e disse: «Questo non deve più succedere». Invece successe questo e molte altre cose ancora. Ecco, era un brano di questo Terra di Rapina che vi dicevo, siamo nel 1949, quindi si va a vedere i contesti, che vi accennavo prima, i contesti di quelle lotte per la distribuzione delle terre, praticamente non solo in colte ma anche questi appunto latifondi che esistevano nel mezzogiorno, che erano praticamente delle proprietà parassitarie di questi baroni che poi la maggioranza dell'anno, la maggior parte dell'anno erano chiaramente, si spostavano a Roma o in altri posti e abbandonavano a se stessi appunto non solo i contadini, ma li abbandonavano anche alle truppe, diciamo, mafiose, no? Che facessero la guardia. Finisce la guerra e qua c'è una fame, una miseria che non si sa che cosa fare. Nel 44 io e mio padre, Giuseppe Cacioppo, e suo padre, Salvatore Giacone, di 19 anni, e altri giovani, tutti sui 18 come me, ci mettiamo contro i contrabbandieri per non fargli portare via il grano da Sambuca e per farlo ammassare in favore della popolazione. Non ci fu mai conflitto, ma ci denunciarono, e poiché alla caserma dei carabinieri un certo Triolo era morto sotto le legnate, noi per paura, pur di non mettere piede in caserma, dove sapevamo che ragione non ne avremmo avuta mai, ce ne siamo andati in montagna. Nel momento che ce ne siamo andati armati alla macchia, eravamo 18, tutti incensurati. Nel nord c'erano i partigiani armati. Anche qui era vicina l'ora della nostra liberazione dai mafiosi, dai ricchi e dallo Stato. I carabinieri cominciarono a darci la caccia e noi stavamo nascosti a Cerami o a Montagna Grande. Cercavamo contatti con la sezione comunista di Sambuca e avevamo inciso la falce e il martello sul calcio dei nostri mitra. Facevamo una vita di stenti, la vita dei latitanti, ma avevamo fiducia. Questa qua è invece la vicenda appunto di questi di questo gruppo di si può dire contadini, adesso braccianti, ecco, di abitanti di questi paesi nella provincia di Sambuca, provincia di Agrigento. E naturalmente il Partito Comunista non può permettersi di sostenerli in nessun modo, li abbandona e va a finire che Cacioppo e Giacone vengono uccisi dai carabinieri. Abbiamo scelto soltanto possidenti ricchi che erano mafiosi oppure fascisti e gli abbiamo scritto lettere di estorsione. Se erano solo ricchi non li toccavamo, la nostra era un'idea di giustizia politica. Uno lo abbiamo sequestrato, cercò di scappare a cavallo e disgrazia volle che uno di noi spara e lo ammazza sul colpo. Insomma, abbiamo commesso delitti e ladrocini e da questo momento il Partito Comunista, che non vuole che si ruba, in questa storia non ci entra più e io non lo voglio nemmeno toccare. Ci fu il conflitto a fuoco in contrada San Giovanni, a pochi passi da qui, meno di 2 chilometri, una contrada alberata in vista del paese, e fu così. Avanti andarono in due, Cacioppo di 19 anni e Giacone, pure lui di 19, per vedere se c'era via libera. Tutti noi indietro un po' distanti, di colpo i carabinieri in agguato cominciano a sparare e Salvatore cade ferito. Cacioppo, Salvatore è Giacone. Cacioppo scappa indietro a corsa pazza per chiamarci. Mentre corre sente un colpo, continua, arriva fino a noi, ci dice presto presto. Avanziamo tutti, ingaggiamo il conflitto con i carabinieri, sparando all'impazzata, senza vederci da una parte e dall'altra, ma siamo decisi a tutto per riprenderci Salvatore ferito. Avanzando e sparando arriviamo davanti a lui, che sta coricato sotto un albero, con la pistola in mano appoggiata alla testa. Si è sparato perché pensava che prima di noi arrivavano i carabinieri. Abbiamo capito che per noi era la fine. Ecco, mi correggo appunto, rimane ucciso questo Salvatore Giacone e gli altri vanno sotto processo ovviamente e si fanno dei decenni di carcere. Ancora tempo per una lettura. Questo che parla invece un funzionario della zona di Caltanissetta. I proprietari di terre avevano una paura fottuta e il Partito Comunista in quei primi anni faceva davvero paura. Nel 44 e 45 il PC a Caltanissetta era un partito di minatori, rissosi, armati, ubriaconi, cui si accodavano frange di mendicanti, di scemi, di alcolizzati e di puttane. C'erano due, un fratello e una sorella, due ceffi spaventosi, che a ogni manifestazione, con nostra rabbia e preoccupazione, si impadronivano della bandiera rossa e si mettevano in testa al corteo. La loro proposta era sempre quella: assaltiamo il municipio, assaltiamo la prefettura. Alle riunioni i minatori venivano con tasche rigonfie di coltelli e revolver. La linea del partito gli sembrava un trucco, linea legalitaria all'esterno, per non spaventare la gente, ma la vera linea era quella dello scontro. Ce ne volle per persuaderli. Tra i minatori il partito ebbe una funzione. Vabbè, poi lui continua con le sue considerazioni. Questo mi sembrava interessante. E va bene, lasciamo ancora un brano. Allora, stasera stavamo leggendo queste testimonianze prese dal reportage così scritto negli anni 70 da Giuliana Saladino, giornalista dell'Ora, giornale di area PC di una volta, ecco, di quegli anni là, degli anni 70, e si intitola Terra di Rapina, è la storia, diciamo, ricostruzione delle vicende, cioè del contesto di vita di questo rapinatore Giuseppe Di Maria di Cianciana, che penso sia provincia sempre di Agrigento, è comunque Sicilia occidentale. La riforma Gullo, di cui si diceva un mesetto fa, così si parlava di questo discorso della mezzadria, di andare al 60% del raccolto invece del 50%, di abolizione delle varie, appunto, angherie, e di ridistribuire terre incolte, ecco, funzionava, però era predisposto per solo, naturalmente, per il latifondo, nel senso che in Sicilia esisteva già a quell'epoca, ancora più adesso, anche un tipo di coltivazione più si chiama da trasformazione, nel senso che richiede comunque cioè che consiste nell'agrumeto e nel vigneto, ecco, praticamente quel tipo di coltivazione lì erano escluse dalla riforma del latifondo, perché non erano latifondi, ecco. Qui si parla delle zone più interne, più fra virgolette sfigate, dove era, appunto, c'era questo, anche tecniche arcaiche di coltivazione rimaste lì dai secoli. Le strade erano, nessuno aveva pensato di sviluppare anche un discorso di comodità per raggiungere, ecco, gli vari appezzamenti, ecco, tutta una serie di irrigazione dava problemi, in quanto che anche a livello climatico la Sicilia aveva precipitazioni, ma tutte concentrate nell'autunno, pochissimo in primavera e praticamente zero nell'estate, e questo causava problemi anche di idrogeologici, ecco, di contenimento delle piene, dei torrenti, eccetera. E Giuseppe Di Maria cresce in questa Cianciana, dove c'è una miniera di zolfo. Le miniere di zolfo hanno una ripresa alla fine degli anni 40 con la guerra in Corea, perché comunque il mercato dello zolfo con la guerra si riattiva, ma questo paese qua è proprio uno dei più sfigati, nel senso che non è un po' al di fuori del flusso, ecco, di altre miniere siciliane, e quindi rimane tanta miseria, anche se i minatori scioperano, fanno degli scioperi, bloccano la produzione, ma hanno paghe bassissime e i proprietari gli concedono un lieve aumento, è un esempio per capire, ecco, gli danno un piccolo aumento quando loro sono stremati da questo sciopero, gli danno un piccolo aumento naturalmente in nero, nel senso che loro continuano a percepire lo stesso salario e risultato che avranno le pensioni più basse d'Italia poi negli anni. E Giuseppe Di Maria, dicevo, è anche lui, inizia da ragazzo a lavorare, da bambino, e essendo nato negli anni, mi sembra negli anni 30, adesso non mi ricordo più, comunque appena può partecipa al rapimento del figlio di un barone di quella zona lì, ma è messa in piedi proprio alla disperata anche questo rapimento, nel senso che partono da una richiesta di 60 milioni di lire e dopo pochi giorni abbassano, arrivano a 4 milioni, per dire, di riscatto, che gli non riusciranno neanche a ottenere, perché sono troppo così poco competenti nel fare i rapimenti, e lui si tradisce, diciamo, e si lascia, si viene diciamo, capiscono che è lui, anche lui uno della banda, è costretto, insomma, a portare le forze dell'ordine, liberano il principe, e lui si prende una ventina d'anni di galera, ne fa dieci anni, poi appunto non so se tramite grazie, robe, tramite buona condotta o cosa, esce, diciamo metà degli anni 60, però parte che i suoi fratelli sono già andati in Inghilterra, lui si trasferisce, insomma, un po' lavora, un po' va a nord, e dove non so cosa, che vita conduce. Una frase importante, una bella, insomma, nel racconto di questo barone, di questo principe qua, barone Francesco Agnello, che appunto è sopravvissuto al rapimento, quando, perché è un racconto, come potete immaginare, di quelli così, insomma, poco credibili, dove questo conte qua, questo barone, chiede al Di Maria, gli chiede: ma perché mi avete rapito? E lui gli risponde: ma solo lei deve andare al Jolly Hotel, no? C'era questo Jolly Hotel, voleva farla una vita come si deve, ecco, voleva avere la possibilità di vivere anche lui come vivevano i privilegiati. E un giornalista comunista scrive sull'Ora, appunto il giornale di cui vi dicevo prima: è un ragazzone di 19 anni, non voleva lavorare la terra ma aspirava a una vita facile e oziosa. E la Giuliana Saladino fa la parafrasi: ragazzone, nel caso 19 anni sembrassero pochi, il peggiorativo corregge l'impressione, è grande e robusto, è un bue da fatica. Non voleva lavorare la terra, la semplicità e solennità del rifiuto riecheggia un sacrilegio senza attenuanti, ma avverso ogni norma statuita, ogni ordine costituito, aspirava. Il passo è più lungo della gamba, la fantasticheria è già torbida. Ha una vita facile, vergogna, e oziosa, equivalente di viziosa. Giuseppe Di Maria sceglie e si muove alla rozza maniera contadina, sbaglia e paga. Altri, leve giovani di piccola borghesia, scelgono, la azzeccano e la faranno pagare cara a chiunque. Portano dentro di sé una miscela esplosiva di rivalsa, di astuzia e di mancanza di scrupoli. Ecco, ci fermiamo qua con questo prima parte di contributo sull'argomento che dicevamo. Mandiamo un po' di musica, poi passiamo ad altro. Bene, e teniamo sempre in sottofondo questa band che abbiamo ascoltato tra l'altro prima, in precedenza, tra gli interventi, cioè tra una pausa e l'altra, mettevamo questa band che è una band croata, loro si chiamano Smrt Razuma e hanno fatto, cioè è uscito questo primo loro album in vinile, anche se alla fine all'incirca 2019-2020 hanno fatto delle demo tape, però questa è proprio la loro uscita discografica in vinile, che è datata 2022, che si chiama Nova Era Mraka. Comunque so che significa nuova vita di penombra. Comunque loro sono, come ho detto, croati, proprio estremo nord della Croazia, ai confini con la Serbia e l'Ungheria. Smrt Razuma. A story, a hope, a dream. Allora, ultimo intervento su questo tema qua di stasera della Manhattan, del progetto Manhattan contro i contadini italiani. Nel immediato dopoguerra gli Stati Uniti d'America con Truman, presidente Truman, imposero ai contadini, diciamo, italiani il passaggio dal grano turco locale al grano turco, al mais ibrido con sementi provenienti dagli Stati Uniti, dove l'innovazione cosiddetta era già stata era già diventata la principale tipo di coltivazione già dopo la crisi degli anni 30. Ecco perché? Perché questo tipo di varietà del mais è un mais che aumenta la produttività per singolo superficie, ecco, per superficie, ed è soprattutto impone ogni anno di ricomprare le sementi, essendo ibrido non è la seconda semina, cioè la semina della prima annata ha un calo deciso, insomma, della produzione, quindi non è possibile fare una selezione delle sementi per conservarle e poi seminarle l'anno dopo come era tradizione. Questo cosa comportò? Insomma, immediatamente una dequalificazione e una delega delle competenze da parte di contadini italiani, insomma, che avevano che coltivavano il mais, punto primo. Punto secondo, affidarsi alla figura dell'intermediario scientifico commerciale, cioè c'erano i consorzi dove si andava a comprare la semente ed era il consorzio a consigliare il contadino su quali erano le sementi adatte al suo tipo di territorio, che comunque erano, la scelta non era possibile essere creativi su questo punto, perché le tipologie erano abbastanza limitate. E tutto questo con un massiccio sostegno del ministero. Nei primi anni 40, nella seconda metà degli anni 40 e nei primi anni 50 si vede che i contadini sono refrattari comunque al passaggio al mais ibrido, e quindi il governo cerca di calmierare, cioè di importare le sementi dagli Stati Uniti senza dazi praticamente e con sovvenzioni, quindi in modo che sia competitivo con le altre sementi. Ricevono l'appoggio del Vaticano, perché Pio XII appoggiava l'approccio scientifico-tecnologico e che lo considerava un elemento sempre, insomma, parte della spiritualità cristiana, e quindi si inseriva nella guerra, appunto, al comunismo dichiarata da Truman attraverso, appunto, l'aumento della produzione. C'erano tutta una serie di sfighe dovute a questo tipo di coltivazione, che adesso velocemente, insomma, era un tipo di mais adatto all'industria e al foraggio, non alla nutrizione umana, come erano invece le pannocchie coltivate prima della guerra. E notare che soprattutto al nord, dove non a caso ci chiamano polentoni, perché appunto il tipo di sì, il mais era utilizzato in maniera massiccia per la nutrizione del popolo. E inoltre, l'ho già detto, c'era questo discorso dell'acquisto, che era un onere. L'acquisto ogni stagione bisognava riacquistare le sementi, anche se era un prezzo calmierato, a un certo punto sì, diventava un onere. E non era vero, era vero che la vigoria vegetale era superiore ai mais nostrani, ma non era immune da parassiti, ad esempio, lo attaccavano i parassiti di qua, perché chiaramente erano diversi da quelli dell'Iowa, ecco. E poi necessitava di concimazioni e necessitava di e depauperava il terreno, no? Ovviamente, perché essendo l'ibrido ricavato da due specie già selezionate, era a sua volta, insomma, richiedeva grande apporto di nutritivi, no, dal terreno. E lo Stato quindi lo Stato, non è vero che, perché anche prima, una considerazione anche sulla storia di prima sulle rivolte in Sicilia, non è vero che, come si dice, lo Stato è assente, no? Questa tiritera, in realtà ogni volta che si muovevano i braccianti, che si muovevano i contadini, arrivavano immediatamente i carabinieri, quelli non erano mai assenti, ecco. E così anche qui, a forza di propaganda, a forza di sovvenzioni, andò a finire che appunto furono estromesse queste pannocchie italiane e vennero sostituite da quelle americane. La cosa, diciamo, dal punto di vista di stasera, cioè delle resistenze, fu appunto che mentre nel nord, specialmente Lombardia, Piemonte, il mais ibrido fu immediatamente assimilato, cioè dati anche le situazioni, le aziende erano già in una prospettiva, diciamo, industriale, ecco. La vicinanza delle industrie comunque trasformative, perché il mais contiene amido e contiene sostanze oleose, quindi viene facilmente sfruttato anche, insomma, sia nel tessile sia in altre cose, ecco. Partirono immediatamente, cioè, come razzi, ecco, Piemonte e Lombardia, piano piano anche l'Emilia, il Veneto invece fu molto molto lenta la cosa, per una serie di motivi che adesso la facciamo breve. Il sud, in tutto questo, arrivò al mais ibrido con 10 anni, diciamo, a metà degli anni 60, ma non perché non c'era produzione, ecco. La produzione di mais del sud c'era, ma continuava con le sementi italiane, sostanzialmente, perché i contadini del sud erano refrattari al discorso di comprare ogni anno, cioè avevano subodorato la fregatura di comprare ogni anno le sementi nuove. La roba lì non l'accettavano, e quindi hanno continuato finché potevano a coltivare queste specie già selezionate nei secoli, appunto, di mais locale. E questo praticamente. Sì, no, boh, questo qua non c'è granché di altro da si potrebbe dilungarsi, ma mi interessava fare questo legame con l'argomento di prima, e lasciamo adesso un po' di musica. I guess our little friends from the college town left because they cut the microphone cord. Yeah, that's pretty fucking tough. Us guys from Cleveland know what violence is towards a band. We know what's going on. This is an older song off of a fucking bootleg called In Contrast of Sound. Sì, un saluto anche da parte mia. Allora, forse non riuscirò a dire tutto quello che avevo in mente, ma comunque riprenderemo anche nelle prossime serate. E appunto, il secondo spunto di questa sera era sulla necessità di cercare di lottare più che si può affinché lo stato di guerra non chiuda i conti con le rivolte dalla Palestina a noi. E per iniziare io volevo dare spazio un po' alla lettera che il compagno Stecco ha scritto, era a settembre, una cosa del genere, perlomeno è arrivata a noi a settembre. Questa lettera riguarda le condizioni del carcere di Sanremo dove Stecco è detenuto. E abbiamo già parlato della scelta del compagno di aderire allo sciopero della fame lanciato da Palestine Action, cioè dai Prisoners for Palestine in Regno Unito, e dall'8 di novembre anche Stecco si è unito a questa forma di protesta radicale. E contestualmente la direzione del carcere gli ha imposto la censura sulla posta, e questa è una veramente una bastardata, perché un prigioniero che è in sciopero della fame, che quindi è affamato anche di solidarietà, insomma, il fatto di scegliere proprio questo momento critico per applicargli la censura è una vera bastardata, e la censura è stata applicata proprio, sembra, a causa di questa lettera che lui ha fatto uscire sulle condizioni del carcere di Sanremo, e specificamente anche sulle conseguenze di una rivolta, di una protesta, insomma una rivolta che c'è stata a luglio, il 25 luglio, appunto nello stesso carcere. Vi leggo qualche pezzetto di questa sua dettagliata lettera. Insomma, appunto, ci dice Stecco che il 25 luglio molti giornali locali e l'ANSA hanno dato la notizia che in questo carcere la notte del 24 luglio ci fu una protesta, una rivolta con 8 agenti feriti. E lui ci dice: io vorrei andare oltre tutta la propaganda, diciamo, che viene fatta dal sindacato di dai vari sindacati di polizia per ottenere sempre lo stesso, cioè più soldi, più armi, eccetera. E invece vorrei cercare di ricostruire un po' la dinamica dell'accaduto e soprattutto quello che sta dietro questo accaduto, camminando un po' sul filo del rasoio, perché chiaramente il compagno sì, sa che non è consapevole del fatto che non è facile rimanere, insomma, intoccati, diciamo, e non macinati dal sistema quando si vanno a toccare queste responsabilità. E difatti lui ci parla della responsabilità della direzione del comando, responsabilità di una gestione dell'istituto che si può definire irresponsabile, superficiale ed anche imbarazzante. E per cominciare ci dice che il comando usava degli alfieri, cioè dei detenuti che aiutano la sorveglianza, la sorveglianza delle forze dell'ordine, anche stipendiati, per mediare ed intervenire in supporto alle guardie nella gestione di alcuni detenuti ritenuti problematici o in alcuni momenti critici, quasi sempre con detenuti di origine straniera. E quindi già qui una forma di cooptazione, diciamo, e di desolidarizzazione, di divisione, di tentativo di divisione dei detenuti, che ha effetti poi deleteri, insomma, sull'intera popolazione carcerata. E poi, appunto, in questa lettera Stecco ci parla anche delle conseguenze di questa rivolta. I giorni seguenti alla notte del 25 e le settimane successive, dopo che la comandante Nadia Giordano è stata assilurata e mandata a timbrare scartoffie, è arrivato in missione il comandante di Cuneo, Daniele Cutolo, ora sostituito da quella di Imperia. Questo comandante di Cuneo, già responsabile di aver in passato ribaltato il carcere di Biella, dopo che anche là erano emersi problemi di sicurezza, portandosi dietro la sua squadretta di fiducia. Ecco qua. E come si risolvono i problemi delle carceri. Questa squadretta di fiducia, assieme alle guardie qui presenti, ha fatto sballare, cioè trasferire in gergo galeotto, circa una trentina di detenuti e rimescolato alcune sezioni. Chi si rifiutava, si opponeva o alzava la voce di fronte a questo intervento, oltre al potenziale rapporto, poteva subire un'aggressione fisica che poteva finire anche in un pestaggio. Sono state cambiate tutte quelle che erano le abitudini all'interno del carcere, apportando il ripristino totale del regime chiuso, a parte quello della quarta sezione, che è sempre stata aperta. Le socialità nelle celle sono state tolte, rimane la saletta. Ogni tipo di mobilità interna è ad oggi ostacolata rispetto a prima. Le continue perquisizioni alla ricerca di frutta fermentata, telefoni, eccetera, danno il pretesto alle guardie per rompere cose autocostruite dai detenuti nelle celle. Felpe con cappuccio, cappellini con visiera, vasi di piante di basilico e menta. L'altra settimana in sezione c'era una guardia conosciuta per le sue continue provocazioni. All'apertura per l'aria si è spazientita e ha urlato: bene, ora non mando giù più nessuno. Ci si è messi di buona lena a battere blindi e stoviglie. Il risultato è che ci si è trovati subito una dozzina di guardie con guanti, pronte ad intervenire. Questa dinamica, prima della rivolta del 25 luglio, non c'era. Ora è stata data carta bianca. Chi insulta o parla male, ora rischia di essere preso ed in malo modo portato in isolamento. E continua il compagno, appunto, raccontandoci di questi progredire, diciamo, dei tentativi di sedare ogni forma di rivolta, ma anche di zittire, no? Tutte le persone che nei vari contesti, insomma, cercano di opporsi, appunto, a questo andazzo di cose e anche all'oppressione e anche alla repressione. Il fatto più grave è avvenuto in data 14 settembre contro un detenuto arrivato a metà agosto che ha evidenti problemi psichici. Nella sua cartella clinica risultano 9 TSO subiti, pratiche di autolesionismo e ipocondria, oltre all'assunzione della terapia. Che dopo essersi barricato questo detenuto dentro la cella, nella sezione della degenza, ha subito l'intervento della sorveglianza. Dopo che la cella è stata aperta, una quindicina di guardie l'hanno portato in una cella isolata fuori dalla sezione. Ed in due fasi, alle ore 20.36 e 21.30, il detenuto è stato aggredito. A suo dire ammette di aver insultato le guardie, ma non ha agito contro di esse. In data 15 settembre all'aria decine di detenuti della prima sezione della degenza potevano constatare il suo viso tumefatto, il naso presumibilmente rotto e segni di anfibi sulla schiena. Sembra che dopo pranzo gli sia stata concessa una videochiamata ed in data 16 settembre, cioè il giorno dopo, è stato portato all'ospedale su richiesta del medico. E poi Stecco ci parla delle visite del provveditore delle carceri piemontesi e liguri, e appunto visite che hanno fatto seguito a questi episodi, e però come sempre, come quasi sempre, ma direi sempre, il confronto dei detenuti viene meno. Il concetto che è stato espresso da questo provveditore è che loro sono lo Stato e non sono lì per, e non erano lì per noi. E che ci sono regole da rispettare. Alla prima visita ci si incrociò alla rotonda e dopo aver accusato la direttrice di incompetenza e menefreghismo, visto che codesto individuo insisteva sulle regole, gli si rispose citando vari articoli del diritto penitenziario a favore dei detenuti e sistematicamente non rispettati. Si passa dalla mancata fornitura di lenzuola a prodotti e prodotti di pulizia e igiene, alla gestione dell'area sanitaria, mancanza di attività di vario tipo, alla sistemazione della palestra e campo sportivo, alla possibilità che chi è nei termini possa accedere alle pene alternative, all'inadeguatezza di questo carcere nel sostenere persone con problemi fisici e psichici di vario grado, senza contare la quotidiana manifestazione della povertà, soprattutto dei detenuti stranieri, spesso completamente isolati e abbandonati a se stessi. Come detenuti di Sanremo, ad oggi, per vari motivi, non ci si riesce ad organizzare, quantomeno per riuscire a trovare spazio per le nostre richieste ed esigenze e renderle attivabili facendo pressioni. Però, appunto, Stecco e gli altri detenuti non si scoraggiano e comunque cercano di, come si può, con quello che si riesce a fare, di portare avanti delle istanze. E poi appunto il compagno fa un'analisi, no? Un'analisi appunto del contesto in cui anche si trova il carcere di Sanremo e si trova la popolazione detenuta a Sanremo. Una cosa è certa e va ribadita: quello che succede nella Liguria di Ponente è lo specchio di questo luogo e qui emerge in tutta la sua attualità la questione di classe. I forti investimenti nel ramo immobiliare del comune di Ventimiglia e Sanremo per accogliere i ricchi francesi e non solo, che per via della flat tax sono attirati da case e servizi detassati adatti ai loro standard di vita, sta portando a spese pubblico-private nell'ordine di centinaia di milioni di euro. Nuovi posti barca, come Calaforte per i ricchi di Monte Carlo, vengono costruiti, nuovi hotel a 5 stelle sorgono. Intanto il sindaco leghista di Ventimiglia nelle ultime settimane ha fatto sgomberare con le ruspe i bivacchi sotto il cavalcavia del fiume Roia. La prigione di Sanremo è isolata, il servizio autobus è praticamente inesistente. Questo luogo rispecchia quelle che sono le politiche locali. I poveri e i migranti finiscono qui, espulsi prima dalla città, qui e poi oppure in CPR. Molti sono invece i detenuti che rimangono impigliati nel sistema della frontiera, emarginazione, indifferenza, repressione, razzismo. Questa è la vera essenza di questo luogo ed il clima che si respira. Ad oggi tutte le proposte di migliorie e cambiamenti sono inascoltate, le decisioni sono unidirezionali, cioè imposte. Ecco, questa era appunto un brano della lettera di Stecco sulla situazione del carcere di Sanremo, dove lui è detenuto da un bel po', e che lettera che gli è costata appunto la censura, l'applicazione della censura sulla Posta, proprio in questo momento in cui si trova in sciopero della fame ormai dall'8 di quindi da quasi 20 giorni, dall'8 di novembre. E dico due parole per introdurre, diciamo, il finale un po' di Zardins di questo giovedì. Stecco appunto ha aderito allo sciopero dei, come dicevo prima, dei Prisoners for Palestine. E si tratta di, in questo momento mi sembra una 6 o 7 prigionieri che sono in sciopero della fame a oltranza nelle carceri del Regno Unito, e sono compagni che fanno parte appunto di Palestine Action, che hanno fatto delle azioni contro l'Elbit Systems, uno dei delle più grandi realtà produttrici di armamenti di Israele, e anche contro le forze armate del Regno Unito stesso, e nello specifico contro velivoli da ricognizione che appunto servono a portare la morte nei vari territori, non solo in Palestina, comunque restiamo sulla Palestina per il momento. E questi compagni e compagni, dicevo, sono hanno varie nazionalità, non sono tutti inglesi, e ce ne sono anche compagni palestinesi, ad esempio. E poi a loro si sono uniti anche altri prigionieri, ad esempio negli Stati Uniti. E una cosa importante è che questa forma estrema appunto di lotta, cioè lo sciopero attraverso lo sciopero della fame, è stata scelta non solamente chiaramente per denunciare le condizioni di detenzione, che sono molto dure e che prevedono anche la censura, ma essenzialmente anche per bloccare la presenza di Elbit Systems all'interno del Regno Unito. Cioè loro richiedono espressamente che ci sia un fermo, diciamo, delle collaborazioni del governo con Elbit Systems. Allora, vi leggo solo un breve pezzettino della compagna Teuta Osha, e appunto la dichiarazione con cui lei si unisce allo sciopero della fame, e dice appunto: ci vuole energia per combattere la propria causa. L'ultima volta al carcere ha cercato di dissuadermi. Ricordo loro che questa è una caccia alle streghe, non una lotta leale, e che dietro agli arresti delle voci dissenzienti da parte delle forze dell'antiterrorismo, dietro alla detenzione preventiva senza processo per quasi 2 anni e dietro agli attacchi ai manifestanti che condannano le sofferenze dei palestinesi, c'è il tentativo palesemente disperato di costringerci tutti sotto il giogo imperiale della sottomissione. Ma nemmeno queste minacce, questi abusi di potere possono annullare il risveglio che abbiamo sperimentato e la profonda solidarietà con i nostri fratelli e sorelle palestinesi. Etichettarci come terroristi non fa che aggiungere sale alla ferita morale inflitta a tutti noi dalla complicità della Gran Bretagna nel genocidio in corso in Palestina. Nel 2009 Elbit Systems ha diffuso il filmato di un attacco simulato a un villaggio palestinese per presentare i suoi droni di sorveglianza senza pilota ed aerei d'attacco. L'anno scorso il suo amministratore delegato, Bezalel Maklis, si è vantato del fatto che i nostri sistemi sono in uso operativo in Israele, il che ci aiuta perché i nostri clienti preferiscono soluzioni mature. Soluzioni mature è un eufemismo per dire sperimentate, testate, dimostratesi letali e pericolosamente mortali. Il genocidio sistematico dei palestinesi a scopo di lucro. E il governo del Regno Unito, il Ministero della Difesa, sta prendendo in considerazione un contratto da 2,7 miliardi con Elbit Systems UK, ricompensandoli per un genocidio efficiente ed efficace. La sua società sussidiaria, Elbit Systems UK, continua le sue attività produttive qui nel nostro territorio, sotto i nostri occhi. E noi chiediamo al governo di rendere pubbliche le licenze di esportazione degli ultimi 5 anni. E conclude Teuta Osha: le nostre richieste sono semplici e voglio che sia messo agli atti che il nostro sciopero collettivo deve essere interpretato solo come una volontà di vivere, usando nient'altro che la nostra fame per resistere alla macchina da guerra imperiale. Siamo pronti a lottare fino alla fine per questi diritti. Qualsiasi danno subiremo sarà responsabilità del governo. Per favore, agite. E un'altra, quindi, questa richiesta di interruzione dei rapporti con Elbit Systems, e anche c'è la richiesta di deproscrivere i movimenti di solidarietà alla Palestina, anche che hanno agito anche attraverso l'azione diretta, dai gruppi, dalla lista, diciamo, delle organizzazioni terroristiche. Questa è una cosa fondamentale, che è importantissima, perché appunto mette proprio il dito sulla piaga di questa utilizzo della categoria di terrorismo per fare terra bruciata di ogni forma di dissidenza. E quindi, insomma, questo è un po' il quadro il quadro delle lotte internazionaliste, appunto, tra Regno Unito e adesso anche Stati Uniti e anche Italia. Una cosa altra importante che va detta, ed è sempre in questa, ricollegandomi un po' anche a quello che si diceva prima, no? Il progetto Manhattan applicato in vari settori, diciamo, della vita, e quindi imporre con il terrore l'accettazione del binomio scienza capitale e questo modello produttivistico e l'uso duale di ogni tecnologia. E mentre sentivo queste parole dette dal compagno prima, mi veniva in mente una notizia che ho letto oggi relativa a Israele, cioè il fatto che c'è questa crisi idrica e allora loro hanno pensato di riempire d'acqua il lago di Tiberiade, e quindi di accaparrarsi l'acqua dei palestinesi, perché sappiamo che la popolazione palestinese ha pochissima acqua potabile, cioè ha difficoltà ad accedere all'acqua potabile, e loro ti riempiono l'acqua il lago di Tiberiade rubando l'acqua. E poi mi è venuto in mente anche Macron, che ieri o oggi addirittura, ma mi pare ieri, ha presentato questo nuovo questa riforma del servizio militare. E in Francia, perché con tutta la propaganda di dovete abituarvi all'idea di sacrificare i vostri figli per difendere la patria, e però noi vi distribuiamo i kit di sopravvivenza, appunto, anche qui l'accaparramento di risorse per la sopravvivenza e comunque per preservarsi, diciamo, per resistere contro un nemico che viene anche demonizzato. E sì, quindi anche in Francia, o come anche in Germania, ma magari della Germania parleremo la prossima settimana, perché così approfondiamo di più il discorso della riforma del servizio militare. C'è questa proposta anche in Germania di partire con un servizio volontario, però con certe caratteristiche, o anche con delle imposizioni, con dei questionari imposti ai maschi, alle femmine e ai soggetti non binari. Ancora non è obbligatorio per le femmine e per i soggetti non binari, ma per i maschi è obbligatorio un questionario a tutti i diciottenni sulla disponibilità a fare il servizio militare, che però prelude anche all'obbligatorietà qualora non ci siano risorse umane sufficienti, appunto, per il servizio militare. Sulla stessa scia si è messa la Francia con Macron. Stasera, prima di venire in radio, il TG diceva che Crosetto ha subito battuto i piedi, si è messo sull'attenti e ha detto che appunto anche in Italia stanno preparando una riforma del servizio militare. Questo stiamo quasi sforando, ma non importa. Anche Menia, beh. No, Germania. Germania l'ho già detto, Ezio. Sì. No, in Germania è già così. Crosetto, appunto, loro sì, insomma, chiaramente dietro c'è la NATO, c'è questo riarmo generalizzato e... Torniamo un attimo ai Prisoners for Palestine e torniamo al compagno Stecco. I compagni che sono stati repressi, che hanno organizzato in Germania appunto questo convegno contro il militarismo ad Amburgo, approfondiremo, ma intanto dico solo questo. Hanno dichiarato solidarietà, insomma, ai Prisoners for Palestine e a Stecco nello specifico anche. E c'è stata la solidarietà anche dei prigionieri palestinesi e di George Ibrahim Abdallah, combattente libanese, che insomma combattente per la Palestina. E appunto concludiamo insomma Zardins di oggi mandando un piccolo audio che riguarda queste dichiarazioni del compagno George. Bene, stiamo ascoltando i Boycott, band olandese, e appunto il discorso che è stato annunciato lo faremo partire tra 1 o 2 minuti. Prima volevo appunto, dato che siamo in tempi strettissimi, vi ricordo che anche prima abbiamo ascoltato una band statunitense, un live degli Integrity, band storica americana del Cleveland, e appunto, come ho detto, adesso i Boycott da questo album 10 pollici split con i Distress, uscito nel 1996, e appunto, come ho detto, siamo in tempi strettissimi, noi questo programma è Zardins Magnetics, che ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane, anche oggi 27 novembre. E come di consueto vi diciamo i nostri contatti, che ovviamente contattate noi che siamo dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Se volete scriverci con la posta, tramite posta elettronica, dovete scrivere a liberetutti@autistiche.org, oppure scrivere intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Questa puntata di Zardins Magnetics, ma anche quelle delle volte scorse, potete ascoltarle, cioè riascoltarle, nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Quindi ciao a tutti, al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17, e adesso ascoltate, prima di cambiare canale, so che è una cosa che non si dice cambiare canale, dovreste rimanere sempre su Radio Onde Furlane, ma fate quello che volete. Ciò che il nostro popolo ha subito recentemente a Ain el Alber e ciò che abbiamo subito ieri nei quartieri di Beirut conferma che affrontare la normalizzazione è il primo passo, è il passo più importante per ogni patriota di questo paese. L'identità nazionale si costruisce ponendo fine a ogni discussione o esitazione riguardo all'identità della resistenza armata. La resistenza armata in tutte le sue forme è la vera espressione di sovranità di questo paese. La resistenza armata, con tutte le componenti del nostro popolo, è l'essenziale difesa della sovranità di questo paese ed è la legittima espressione di ogni legittimità in questo paese. Naturalmente, la resistenza insieme al suo braccio armato, la sua unica difesa in questi giorni. La resistenza in ogni sua forma e in tutte le sue forme si esprimerà sempre più sul piano dello scontro con i meccanismi della normalizzazione. Normalizzazione che è promossa in primis dalle forze reazionarie arabe. Tutte le forze reazionarie arabe si sono immediatamente spostate verso il fronte nemico, va vale a dire verso il fronte israeliano e verso il suo padrone, l'imperialismo americano. Le nostre masse popolari annienteranno la normalizzazione. La repressione verso le masse, verso di noi, aumenterà nei prossimi tempi, ma le nostre masse popolari dipenderanno dalle aspirazioni delle masse della nostra nazione araba. Il Sumud, la fermezza di questa resistenza in Libano, è l'unica guida di un movimento arabo complessivo. Stiamo uniti e compatti con la resistenza armata, senza se e senza ma. Non ci sono giustificazioni per nessun ma. Ogni partito è tenuto a riunirsi attorno alla resistenza per raggiungere tutte le componenti del popolo libanese con tutte le loro sezioni e denominazioni in vista dello scontro con l'occupatore, in vista dello scontro con la repressione che pretende che accettiamo la normalizzazione. Oggi il Libano è più che mai il simbolo della dignità araba. Dobbiamo affrontare la repressione delle forze reazionarie arabe che hanno completamente abbracciato Israele e i suoi alleati. Per questo il nostro obiettivo è l'obiettivo della resistenza in Libano e in Palestina, portando avanti la bandiera della rivoluzione araba. Grazie di essere qui, compagni. Grazie ai compagni che hanno partecipato al corteo, è un primo passo verso l'obiettivo di passi più importanti.